Italians. Italienne. Italianas. Italianas. Con la valigia. Finalmente è tornata, ragazzi, è tornata la nostra superstar. Sicure che siete contente che sono tornata? Sì. Sì, dai, ci sei mancata. Beh, innanzitutto ho trovato il posto più largo, posso anche aprire le braccia. Sì, perché non ci sto più vicino a te. Vicino a te non ci sto più. Cioè, veramente, sai, delle canzoni che mi scioccano. Posso dire una cosa? È sì, meglio sì. Che non approfondiamo sto discorso, dai. Sì. Perché se non conosci questa canzone è un po' grave. Dai, va bene, dai, andiamo la avanti. Io, tu la conosci? No, ma io di meno, si stupisce nessuno. Ma le parole erano diverse, su, era una metafora. La metteremo fuori onda, così chi vuole capire capisca. Comunque dai, sono tornata, ho fatto questi viaggi, poi ho sentito le puntate che avete fatto, insomma, dai. Potevate fare meglio, ragazzi. Grazie. È sempre molto gentile, sì. Molto cara. Laura, per Laura, ridere. rosso. Scusa, no, aspettavo le campane. Guarda, le campane si vendicano. Vedi? Perché Deborah non sa che ogni ora sono le campane. Sono le 12, quindi quante volte sono la campana? Questa è una citazione letteraria. Vedi che Maddalena sta migliorando. No, non l'ha fatta apposta. Ah, sì? Non conosce il romanzo di Hemingway, no? Ma certo. Però l'abbiamo fatta apposta. Pane sì. Hemingway prende di notte, quelle sei ore che dovrei dormire, dico, ma è inutile che dormo. Ma perché? Leggo. Ma perché? Dai, comunque. Senti, ma andiamo sì. A intervistiamo qualcuno o chiacchieriamo del più del meno oggi? Oggi intervistiamo una nuova ragazza. Nuova? Che ci ha... Cosa vuol dire nuova? Nuova perché non l'abbiamo mai sentita. Ah. Sì, e lei ci ha contattato. Fresca, giovane, viene da Hong Kong, lo sì, potevo dire? Sì, sì, vive a Hong Kong, bravissima, in questa splendida città ed è passata da un paesino umbro ha una città da 8 milioni di abitanti, quindi paese uno shock. Umbro di quanti abitanti? Lo sapremo dopo. Allora andiamo a Hong Kong, che ne dite? Dai, andiamo, forte. Dai, andiamo. Pronto? Buongiorno signore, vorrei comprare una lavatrice. Vorrei comprare una lavatrice. Quale? Candy? Buongiorno signore, vuole una lavatrice? Sta piangendo, no? Ale, dai, andiamo, sennò questa mi sviene. Benvenuta Italiani con la valigia, grazie per averci contattato. Da dove vieni, Arianna? Io vengo da un microscopico paesino del centro Italia, in Umbria, che si chiama Scheggino, un paese di 500 anime. Adesso mi trovo invece a Hong Kong, in una città che ne ha tipo 8 milioni. Volevamo sapere un po' di questo trasferimento, come ci sei finita ad Hong Kong? Tutto è successo un anno fa, mio marito lavorava in una... diciamo struttura privata, lui è un enologo e ha conosciuto un diciamo cliente che ha visto comunque le sue capacità e così l'ha chiamato. In quel periodo io ero incinta della mia bambina che sarebbe no. Sì, a ottobre, e questa proposta gli è stata fatta per settembre, quindi lui ha rifiutato inizialmente. Poi ha deciso di aspettare la nascita della bambina e trasferirvi tutti quanti. Ovviamente è ancora più semplice quando la bambina è nata, un bebè, trasferirlo. Sì, è stato un po' difficile perché lei aveva 4 mesi e lui ha dovuto partire per sondare giustamente il terreno, capire di cosa si trattasse. E una volta appunto visto che il posto era bello, il lavoro andava bene, ha pensato di portarsi tutta la famiglia dietro. Quindi mega trasferimento tutti insieme. Vi ha messo in valigia e via, vi ha portate. Ma tu eri d'accordo o ti sei proprio fatta convincere? Com'è andata? Guarda, allora, ovviamente, cioè immaginate, mamma di una bimba appena nata di qualche mese, figuratevi se avevo questo entusiasmo di andare dall'altra parte del mondo. Io ero contrarissima alla cosa e abbiamo discusso tantissimo, perché poi io in Italia avevo un lavoro abbastanza stabile, quindi no, ero assolutamente contraria. A me stava bene quello che avevo, lavoravamo, avevamo le nostre cose, quindi non vedevo perché dovevamo fare questa alzata d'ingegno e trasferirci. Scusa, il perché viene spontaneo, dai, Hong Kong. Però io capisco anche il suo punto di vista, perché quando nascono i bambini non è facile. Senti, ma l'impatto, perché prima dell'inizio della trasmissione ci interrogavamo, no? Visto che Hong Kong non è cinese da poi così tanto tempo, ci chiedevamo se aveva mantenuto ancora il suo spirito europeo. Esatto. Io mi ero fatto un'idea completamente negativa su Hong Kong e invece è stata completamente stravolta, perché ho trovato una realtà molto bella, dinamica e crescente, quindi sono stata entusiasta molto. Per quanto riguarda il suo carattere occidentale, allora ha mantenuto, diciamo, quella che è la sua cultura e la sua tradizione per quanto riguarda alcuni, diciamo, l'aspetto alimentare, e per quanto riguarda anche diciamo in alcuni parchi tematici, intendo parchi a tema religioso o naturalistico, aspetta, chiarire questa cosa del parco a tema religioso, come funziona, che cos'è? Niente, praticamente è strano da spiegare, però adesso ci provo. Allora, praticamente il tempio e il parco di fianco, come funziona? A tema del tempio. Praticamente c'è un grande ingresso che è come se fosse appunto quello di un parco comune, e all'interno di questo parco qua ci sono vari sentieri che ti portano a vari templi, tipo buddista piuttosto che maoista, a seconda chiaramente della religione. Quindi un centro religioso, un centro multireligioso all'aperto, e c'è, che ne so, appunto un tempio, poi c'è il Roscello, ci sono le mamme con i bambini in carrozzina che vanno lì a pregare, fondamentalmente a pregare, però se uno vuole star lì, ad esempio leggersi un libro, può farlo. Quindi dei polmoni di spiritualità in giro per la città. Poi ci sono anche questi giardini dove ci sono queste piante bellissime, queste sale da tè stupende, e quindi diciamo in questo senso qua si respira un po' la cultura cinese. Per quanto riguarda invece l'aspetto occidentale, grattacieli, negozi ovviamente a marchio internazionale. Quindi tuo marito fa l'enologo? È enologo, però nella sua esperienza particolare aveva fatto anche quest'altro tipo di esperienza come direttore di ristoranti, e quindi lui è venuto a dirigere un ristorante di cucina internazionale, quindi con una clientela per lo più hongkongiana, e quindi un mix tra, diciamo, i nuovi cinesi e quelli che sono gli abitanti di Hong Kong provenienti da Australia, America. Beh, quindi è una realtà super internazionale. Assolutamente sì. E quindi niente, lui si trova in questa realtà, è contentissimo ovviamente, è molto diverso l'aspetto lavorativo rispetto in Italia, perché chiaramente oltre ad avere un certo, diciamo, stipendio che in Italia ci sognavamo, anzi si sognava. Certo. Quindi diciamo tuo marito carriera e tutta vita, e tu a casa con la bambina. Temporaneamente, perché sono alla ricerca di una babysitter per la bimba, perché qua ad Hong Kong purtroppo non è come in Italia che tu porti la bimba al nido e la lasci lì e poi la vai a riprendere. Qui non puoi lasciare un neonato al nido da solo, devi accompagnarlo. E quindi, cioè devi restare al nido. Sì. Noi invece il nido ce l'abbiamo per lasciarli i bambini. Ma se no, restano perché è abbandono di minore, non puoi assolutamente. No, veramente. Ma ti arrestano? Sì, anche se tu lasci, tuo figlio di 16 anni a casa, perché vai a fare delle spese così e fanno un controllo e magari sei andata via, non so, uno o due giorni, assolutamente non puoi farlo, è illegale. Fanno un controllo perché ci sono dei controlli random? No, ma perché magari 16enne fa la festa, fa un casino. Perché dalla dai cinesi mi aspetto qualsiasi cosa. Niente, ho assolutamente necessità di trovare qualcuno che mi accompagni la bimba al nido. E io chiaramente cercherò di rimettermi nel mercato lavorativo prima possibile. Bene, noi te lo auguriamo. Ma in che ambito? Dimmi in che ambito. Allora, io sono laureata in marketing e comunicazione, ma mi occupavo di organizzazione matrimoni, quindi vorrei cercare di sviluppare quello che può essere un'organizzazione matrimoni di turisti cinesi in Italia, una sorta di incoming. Senti, dovresti vedere gli occhi di Laura, qua c'è business. Abbiamo un sacco di matrimoni da spedirti. Senti, Laura voleva chiederti una cosa, visto che tuo marito si occupa di ristoranti, eccetera, quindi insomma abbastanza ferrato a livello gastronomico. Io vorrei sapere la cosa più rivoltante che hai trovato nel piatto. Guarda, devo un po' deluderti, perché noi andiamo in ristoranti, diciamo, internazionali, quindi è difficile che riesci a trovare qualcosa di particolarmente strano. Non hai la curiosità di scoprire la cultura cinese, comunque la cultura gastronomica? Assolutamente ne avrei tantissima voglia, però io ho la sfiga di essere penso l'unica al mondo a essere allergica alla soia. Ecco, perfetto. Sei andata nel paese giusto, ti hanno detto buongiorno. Buongiorno. Benvenuti in Cina, qui si mangia solo soia. L'unico posto dove posso andare, e sono stata, è ristoranti vietnamiti, nei quali chiaramente la soia viene un pochino meno usata, ma nei ristoranti cinesi è dappertutto. Tre motivi per trasferirsi a Hong Kong. Allora, è super fighissima, fashionissima, Milano all'ennesima potenza. Continua. Secondo. È molto comoda, se sei una mamma è fantastica perché ti aiutano tantissimo, ascensori, persone che quando devi portare la bambina per le scale col passeggino ti danno una mano, un po' come qui insomma, uguale. Terzo motivo. C'è tantissima opportunità lavorativa, ma veramente tanta, e molto ben pagate, quadruplicate rispetto all'Italia, veramente. Comunque guarda Laura, giusto? Mi hai chiesto qualcosa di cibo disgustoso, no? Qualcosa che mi ha fatto... Ok, sì. Quando sono stata al mercato e ho visto appesi a testa in giù degli animali spennati che sinceramente non saprei identificarti. Oh madonna! Esatto, sai quando dicono che qua mangiano i gatti, non è proprio una leggenda metropolitana, perché... No, lo so, mangiano anche i cani, Sai, vedere questi cosi appesi a testa in giù con questo odore non proprio gradevole. Dimmi, c'erano anche i serpenti, perché so che mangiano anche quelli. Io l'ho mangiato. Al mercato? No, però se sposti da Hong Kong, cioè, trovi di tutto, perché la Cina veramente è... Questa è pazzesca. La Cina è vicina, in questo caso. Arianna, grazie per essere stata con noi. A voi. Grazie. Ciao, un bacione, salutaci Hong Kong. Ciao. Un giorno di pioggia Andrea e Giuliano, un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontrano Alicia per caso. Queste sono le impressioni di Laura di Hong Kong dopo aver mangiato pane e serpente. Perché? Tra l'altro se era ambientato in giapponese. No, era ambientato in Giappone. Tutti i cartoni della nostra infanzia vengono da là. Sì, era tutto sushi, c'era come si chiamava quello marrazzo? Ma come marrazzo? Come si chiamava? Il padre. Miyagi. Che Karate Kid mi pare. No, non lo so. Lui comunque faceva il sushi tutto il giorno. Io lo dico, vediamo se ve lo ricordate. Dai. Tu te lo ricordi sicuro perché c'è una memoria. Marrau. Marraghi. Dai, dillo. C'era quasi. Marraghi. Marraghi. No. Marrago. Marrabbio. Ma che marrabbio? Sì, marrabbio. Nella versione originale non questa saprei roba dire. Da controllare. Andate un attimo a controllarla. No, scriveteci la risposta sulla nostra pagina Facebook. Come si chiama il papà di Kiss Me Licia? Come si chiama? Il fidanzato? Marrazzo. Vabbè, o no, marrabbio? Fidanzato, si chiama Mirko. Ma a me piaceva l'altro comunque. Satomi. Può essere, sì. Sì, Satomi. Vabbè, dai, comunque scriveteci sulla nostra pagina Facebook, cercateci Italiani con la Valigia, e poi abbiamo il nostro sito www.italianiconlavaligia.com. E quindi? Scriveteci per contattarci e per partecipare alla nostra trasmissione. Eh sì, perché c'è anche un indirizzo mail e io lo chiedo a Maddalena perché deve espiare le colpe, vai. podcast.italianeconlavaligia@gmail.com. Sì, perfetto, manca la chiocciola, ma va bene. Dove c'è Gmail c'è chiocciola. Comunque, ci dicevi del serpente? Sì. Ma com'è che hai mangiato il serpente? Io ero seduta a tavola e hanno portato un piatto con un serpente e intorno tanto mais. E com'è? E l'hanno tagliato a fette e mi hanno... Prima mio padre mi ha detto che non era un serpente ma che era un pesce. Carino, simpatico. Lo fanno sempre i genitori, eh? Sì. Visto che eravamo affamati dopo 24 ore senza mangiare, dovevo mangiarlo. E l'ho mangiato, è viscido. Tipo un'anguilla, no? Sì. Poi gli hanno aperto lo stomaco con un bisturi e dentro c'erano i serpentini. Mangia pane e simpatia, non mangia amingue, te l'ho detto. È cattiva. No, abbiamo fatto bene a bacchettarla, a metterla in solitaria, sì. Se lo merita. Comunque vedi, sono un pesce d'oro, bocca a tutto. Sì. Che carina. Addirittura a me. Va bene, dai, ci vediamo la settimana prossima. Anzi, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao ragazze. Ciao. Italians. Italienne. Italianes. Italianas. Con la valigia.